che mi gira tutto a me. Mi gira tutto. Forse il problema è qua. Roba di qua. Augusto, non hai niente. Niente. Allora che è? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto. Forse il problema è qua. Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Tutti i lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio! Chiuditi! Tabula rasa! Tutti i lunedì, dalle 21, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ottantasette e nove, questa è Radio Onda Rossa, appunto come detto dallo spot, iniziamo alle 21:10 primi questa puntata di Tabula Rasa. Visto, abbiamo tutto qui un colore. Che colore ci abbiamo? Qua io c'ho l'arancione, te c'è il rosso. Com'è poco radiofonica questa cosa che dici, non ci posso vedere, intanto buonasera anche da me. Sì, dei colori accesi per come... Copri il microfono. Perché quelli che c'erano prima erano tutti un po' rotti e quindi ti rimaneva un po' tutta la polvere della radio. A me se mi avessero fermato per strada 5 minuti fa dicendomi ma ti diamo 10.000 euro, ce l'ha il copri microfono, il microfono della radio? E tu avresti... Guarda che il copri microfono è indispensabile per parlare, perché altrimenti la voce parte si perde. E poi, insomma, tutti gli sputacchi, come tu ben sai, perché ora quando parla comunque stai vicino, entrano dentro proprio il microfono e il microfono si copre di questi sputacchi e si ottura e non funziona. Madonna, per un momento tecnico, per un attimo stavo pensando se fosse copri il microfono o sputacchio condensato. Vabbè, con questo particolare proprio terribile, dai, andiamo avanti con quella che per quanto ci riguarda è l'ultima puntata di quest'anno di Tabula Rasa. Sei fatto dal calcolo, poi lunedì prossimo tocca a quegli altri. Che mi hanno già detto che non trasmetto. Ecco, quindi. Perfetto. Ma l'altro esiste, tu sei riuscito a capire? Io ho intravisto a un certo punto un'entità che insieme a Fabrizio si aggirava per questa stanza. Ma un discorso hanno trasmesso? No, non Marco. Trasmettono più, non so perché, vabbè. Comunque... E poi attenzione, dopo se saltano lunedì prossimo poi basta, c'è cioè il 21 dicembre, Maya, ciao. 21 dicembre, Maya. Però viene di venerdì. Sì, no, appunto, quindi però noi... dopo basta, finito. È finito, niente. E quindi godetevi quest'ultima puntata Tabula Rasa. E ci abbiamo due argomenti molto interessanti. Uno sono i brevetti. Insomma, parliamo di proprietà intellettuale, parliamo di brevetto, parliamo di proprietà privata finalmente, prima della fine dei Maya, così sappiamo come assicurarci un po' di cose, mettercele da parte. Esatto, togliamoci il pensiero adesso che erano i Maya, così poi non se ne parla più. Così non se ne parla più. Smettiamo di parlare una volta per tutte, questa è l'ultima volta che al mondo parliamo di proprietà intellettuale probabilmente. Non se ne può più anche Non se un ne po'. Può più, diciamo. E poi dopo insomma ci andremo a collegare invece telefonicamente con Silvia Rocchi e parleremo invece di poesia e parleremo di una graphic novel intitolata, fatta insomma sulla storia di Alda Merini. In questo momento invece abbiamo Andrea, ciao. Buonasera Andrea a tutti Capocci. Bentornato, quasi un piacere insomma Andrea, per chi non lo sa, per un periodo. Vabbè, anche trasmesso. Quasi, ma come divulgata, no? Il piacere è tutto mio, quasi un piacere. Quasi piacere anche per Sei me. Sei troppo onesta. È quasi un piacere anche per me. È un super piacere, soprattutto perché cioè, parlare dai microfoni. E... No, anche perché io poi me li ricordo i copri microfoni che c'erano prima. Te te lo ricordi. Certo. Non erano certo così, No. Molti di quegli sputacchi. Senti, dici un po', che libro hai scritto? Qui tutti scrivono libri, però tu, giustamente, perché mi sembra che l'argomento su cui l'hai scritto è un argomento che conosci molto bene. Diciamo, il libro parla di proprietà intellettuale, ma di un lato della proprietà intellettuale di cui non si parla tantissimo. Il brevetto sarebbe l'equivalente del copyright, però il copyright si riferisce a libri, musica, programmi informatici, il brevetto invece si riferisce alle cosiddette invenzioni, quindi alle invenzioni della tecnologia, come possono essere i cellulari, i telefonini di cui sentiamo parlare più spesso, ma rientrano nell'ambito del brevetto anche cose forse più importanti come farmaci e tante altre cose con cui conviviamo tutti i giorni, ma di cui spesso sappiamo poco cosa c'è dietro. Insomma, quello che si chiamano invenzioni. Invenzione è un termine. Avere un'idea, così inizia l'introduzione del tuo libro, con avere un'idea, che sembra una cosa bella, sì, apparentemente, e poi invece... Esatto, quello che cerco di spiegare è che avere un'idea oggi vuol dire una cosa diversa da quello che voleva prima. Cioè, prima si diceva avere un'idea come dire so fare una cosa, oggi avere un'idea vuol dire avere un'idea come si dice ho un paio di scarpe, ho un'automobile, ho un pacchetto di sigarette, cioè ho qualcosa che posso comprare, vendere e che se ho io qualcun altro non ce l'ha. E il brevetto, per chi ovviamente non è addentro la materia, è un contratto che ti permette di avere il monopolio su quest'idea. Sostanzialmente, per dirla in due parole, chi ha fatto un'invenzione si presenta in un ufficio brevetti, chiede il brevetto, come si dice, se l'invenzione soddisfa dei requisiti come la novità, l'originalità, insomma, in modo che non si riesca a brevettare la ruota. E il brevetto viene concesso, e da quel momento chi detiene il brevetto per 20 anni, per quasi tutte le cose dura 20 anni, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo, e quindi può impedire anche agli altri di utilizzarlo. Immaginiamo che questo vuol dire, per esempio, che io posso inventare un farmaco importante, poi posso impedire a qualcun altro di utilizzarlo e posso obbligarli a comprare solo il mio. Questo ovviamente è uno dei casi più eclatanti, ma oggi si parla di brevetti in un ambito sempre più grande, forse è il caso anche di cominciare a parlarne. Di solito quando si parla di proprietà intellettuale ci si riferisce quasi sempre, si fa finire su Linux e il software libero, cominciamo a dire che c'è anche, certo, qualcos'altro. Anche perché la questione dei brevetti avviene per tantissime cose, non soltanto per le cose elettroniche, ma anche, diciamo così, purtroppo anche per il cibo. Cioè, tutto quello che viene inteso sul transgenico è sempre brevettato. Ovviamente sì, anche perché lì siamo nel campo della biologia, lì è un terreno molto scivoloso, perché sono cose che esistono da una quindicina d'anni, una ventina d'anni, quindi anche le stesse normative fanno fatica a tenere il passo della tecnologia, per cui tutto il discorso del brevetto sul vivente, cioè di quanto si può mettere la proprietà privata su delle cose che in realtà già esistono, come le molecole della vita, è tutta una questione aperta. Però per tornare al cibo, un paio di settimane fa ho letto che è stato brevettato un taglio di manzo, insomma. No, è vero. No, è che vuol dire? Cosa vuol dire? In quel caso vuol dire che non si può commercializzare quel tipo di taglio senza chiedere i diritti a chi ha brevettato quel taglio di manzo. Sembra una cosa assurda, ma è vero. Ma se uno va a vedere i brevetti che sono stati depositati negli ultimi anni, ci trova anche dei brevetti molto più ridicoli. Ci trova il brevetto dell'altalena. Ci sono delle ragioni per cui oggi è diventato molto facile ottenere un brevetto, perché ci sono talmente tante richieste che quell'esame di cui parlavo prima, cioè dimostrare che una invenzione è nuova, originale e quant'altro, sono esami che oggi vengono fatti con molta disinvoltura, per cui è facile, per esempio, presentare un'invenzione come l'altalena e vedersela brevettata. Nel libro io poi cito un po' di questi brevetti ridicoli: è stato brevettato il tramezzino, è stata brevettata l'altalena, sono stati brevettati una serie di cose. Ma il tramezzino c'è qualcosa di dentro particolare, no, ognuno brevetta il suo. Cioè. È stato anche brevettato il toast, cioè la tecnica di tostare. Il pane soltanto da un lato. Questo ovviamente non sono brevetti seri, sono brevetti che sono fatti un po' ad hoc per dimostrare che se uno ci si mette oggi può brevettare un po' qualsiasi cosa. E quando si dice non si può brevettare alla ruota, oggi non è tanto vero, oggi se uno si impegna riesce a brevettare anche la ruota. Ma questa facilità di brevettazione, diciamo così, che da quello che dici è degli ultimi anni, da che dipende? A parte il voler essere provocatori di chi presenta il brevetto, io vorrei pure decidere domani brevetto bicchiere di plastica, vado, però in teoria ci dovrebbe essere l'ente che prende la mia richiesta di brevetto, che è preposto a valutare appunto se è innovativa, non è innovativa, se già c'è stata e così via. Poi una volta che arriva lì la richiesta, che succede? Cioè mi chiedo se è solo ignavia oppure se un lassismo da parte, oppure se c'è anche un calcolo magari in alcuni casi. Ci sono tante ragioni e apparentemente no, ma secondo me c'è anche dietro un calcolo. Le ragioni per cui i brevetti sono sempre più numerosi sono tante, e ancora ci si sta studiando perché non è chiarissimo il motivo. La cosa su cui sono tutti d'accordo è che più brevetti non vuol dire più innovazione. Questa è l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo, nel senso che se si va a vedere non so, i livelli di investimenti in ricerca e tecnologia degli ultimi 20 anni, il numero di brevetti, si vede che i livelli di investimenti sono rimasti più o meno stabili, mentre invece i brevetti sono quintuplicati negli ultimi 20 anni. Uno dei motivi per cui si brevetta sempre più è che ci sono sempre più soggetti che brevettano. Oggi, per esempio, molti brevetti vengono anche dalla ricerca pubblica, dalle università, che sempre di più privatizzano le loro ricerche, che nascono magari anche in collaborazione con enti privati, e quindi tendono a brevettare anche cose fatte all'interno dell'università, che crea un paradosso, perché vuol dire che chi paga le tasse per pagare lo stipendio ai ricercatori universitari poi deve pagare un'altra volta per entrare, per utilizzare le scoperte che questi hanno fatto. Ma poi uno dei motivi è proprio quello su cui forse si può parlare di calcolo, è il fatto che oggi gli uffici brevetti sono molto poco finanziati, e sembra che non sia un caso, nel senso che oggi quando viene presentata una richiesta di brevetto, l'esaminatore ha tipo 20 ore di tempo per fare tutti i passaggi che dovrebbero verificare l'originalità, l'effettiva invenzione che c'è dietro il brevetto, e in 20 ore di tempo questo spesso non è possibile. Questo vuol dire che appunto si brevetta qualsiasi cosa, e poi il vero esame del brevetto avviene in un'aula di tribunale, in cui quello conta soprattutto chi ha gli avvocati migliori. E questo vuol dire che quando in un anno di tribunale si fronteggiano un singolo inventore, di fronte c'è lo studio legale della Apple o di Google o della Microsoft, chiaramente in un'aula di tribunale gli equilibri si spostano molto. Quindi probabilmente dietro a questo definanziamento degli uffici brevetti, che porta tutta la questione dei brevetti a scaricarsi sui tribunali, c'è un calcolo che va a favore delle grandi multinazionali, ma questo non è una novità. Nel tuo libro una cosa interessante, tra le varie cose interessanti, ce n'è una che mi ha colpito, che riguarda proprio le multinazionali informatiche, cioè il fatto che la maggior parte di loro, Samsung, Apple, Windows, eccetera, sono in contenzioso legale l'una con l'altra per una serie di invenzioni, tra virgolette, che asseriscono di essere stati i primi a sperimentare e aver poi commercializzato. E quando poi tu in realtà nel libro suggerisci che si vorrebbe anche benissimo, come dire, lasciar stare, no? Sì, oggi questo è un problema che non si pongono infatti soltanto quelli che si oppongono al brevetto, diciamo, per sane ragioni politiche, sociali ed etiche come noi. Il problema di quanto che si brevetta un po' troppo cominciano a porselo anche le stesse imprese, perché come dicevi tu, oggi si parla abbastanza delle guerre tra Apple e Samsung sui cellulari, sugli iPhone e sui Galaxy di queste due grandi aziende, ma in realtà tutte le grandi aziende sono tutte in guerra l'una con l'altra. Apple è quella che sta in guerra un po' con tutti, e cominciano a costare parecchio, tutte queste cause cominciano a costare parecchio, e l'anno scorso sia Google che Apple hanno speso più in vertenze legali che per fare ricerca e sviluppo, e qualcuno comincia a chiedersi se davvero ne valga la pena, anche perché appunto se tutti si fanno la guerra tra tutti, forse sarebbe bene che nessuno si facesse la guerra e che queste invenzioni potessero essere fatte in maniera libera. Probabilmente si arriverà a qualcosa del genere fra pochi anni, probabilmente ci sarà a un certo punto un accordo per cui tutte le aziende che faranno riferimento a un certo settore decideranno di mettersi a di creare una specie di consorzio e mettersi a disposizione le invenzioni l'uno con l'altro. Oggi si parla soprattutto di Apple e Samsung, ma faccio un esempio: Apple e Samsung sono in guerra per i brevetti, ma Samsung è l'azienda che fino a una settimana fa faceva gli schermi per la Apple. Per questo, per far capire quanto poi sono intrecciate tutte queste guerre commerciali, come sia difficile trovare un cattivo e un buono, insomma, in qualche modo. Andando, tu parlavi adesso, dicevi appunto di quello che potrebbe essere il futuro rispetto ai brevetti, almeno per quanto attiene l'informatica. Nella mia ignoranza crassa, una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che poi tutto il settore dei brevetti, anche se in maniera più primordiale, diciamo così, ha una legislazione e una normazione che risale abbastanza alla notte dei tempi, no? Sì, tra l'altro scrivere questo libro mi è stato anche utile per smontare qualche luogo comune. Spesso l'Italia viene considerata la patria della pirateria, invece appunto andando a vedere le radici storiche, l'Italia è la patria del brevetto, nel senso che il primo brevetto è stato dato proprio in Italia, e nel libro racconto la vicenda di Filippo Brunelleschi, che è considerato un grande architetto, ma era un grande inventore, un personaggio un po' alla Leonardo da Vinci, che chiese il brevetto alla città di Firenze per una nave che doveva portare il marmo dalle cave di Carrara a Firenze. Chiese il brevetto e lo ottenne, e quello è considerato il primo brevetto della storia. Poi il caso volle che questa nave, quando fu realizzata, si arenò dopo pochi chilometri e il carico di marmo non arrivò mai a destinazione. Questo diciamo, i brevetti partivano male. Però la prima vera legge sui brevetti poi è stata fatta a Venezia, stiamo parlando del 1470, quindi l'Italia è la patria dei brevetti e vabbè, come è la patria delle legislazioni, insomma delle leggi, per cui un po', ma sì, ma questo è un po' un senso, un po' in generale tutti ritengono che laddove ci siano brevetti ci sia pirateria, insomma chi inventa una cosa rischia di diventare un detentore di brevetto o un pirata perché magari ha violato l'invenzione di qualcun altro, quindi insomma pirateria e brevetto sono due cose che sono sempre andate insieme e probabilmente senza la pirateria non ci sarebbero mai stati i brevetti e senza la pirateria non ci sarebbe mai stata neanche la vera innovazione. Senti, un'altra cosa, io volevo invece, ma ci sono delle invenzioni libere? Cioè, nel senso, allora, invenzioni libere, certo. Cioè, chiunque oggi faccia un'invenzione, la divulghi in qualunque modo, impedisce che poi questa venga brevettata. Quindi, se io tutto quello che esce sulle riviste scientifiche e che diventa pubblico non può essere brevettato. Non mi posso appropriare di una, però deve essere, cioè, nel senso, sì, deve posso scrivere, nel senso, è libera se la pubblico su qualcosa che scientificamente la riconosce come tale, o se per esempio uso la rete come... No, no, tutto quello che è divulgato, che è accessibile pubblicamente, non è brevettabile. Poi su cosa voglia dire accessibile pubblicamente possiamo discutere, perché per esempio uno dei casi più eclatanti, uno dei motivi di dibattito più eclatanti negli ultimi anni sono stati i casi di biopirateria in cui per esempio le multinazionali dell'ingegneria genetica di cui parlavamo prima vanno in India, usano tradizioni millenarie che lì sono conosciute da mille anni, ne spiegano, diciamo, il lato biochimico e brevettano il lato biochimico di una cosa che in realtà è nota da tanti anni. Il problema qual è? Che in quegli uffici brevetti in cui i brevetti vengono esaminati per poche ore ci dovrebbe essere qualcuno in grado di confrontare l'invenzione presentata dall'azienda Monsanto o un'altra con le tradizioni Ayurveda che probabilmente nessuno conosce negli uffici brevetti americani. Per cui una volta c'era il tempo di farlo, c'è un caso famoso in cui un brevetto per esempio fu negato in quanto era un'invenzione che era già stata descritta in un numero di Paperino, tra l'altro un'invenzione utile che è stata anche utilizzata, proposta per l'utilizzo recente per recuperare la Costa Concordia, cioè riempire una nave con palline gonfiabili, no? Questa invenzione qua, fu richiesto il brevetto per questa invenzione, siccome c'è una storia di Paperino del 1948, se non mi sbaglio, che racconta questa stessa invenzione, l'ufficio brevetti, che all'epoca aveva il tempo di fare tutte queste verifiche, disse no, questa non è un'invenzione originale. Su Paperino sono preparati, sull'India un po' meno. Questo, esatto, questo per dire quanto ampio può essere il novero delle fonti. Il problema qual è? Che se io faccio un'invenzione oggi, la divulgo pubblicamente e qualcun altro invece la migliora anche di poco, quel miglioramento può essere brevettato, cosa che è molto diversa per esempio dall'ambito invece del copyright, in cui faccio un esempio, il famoso software libero rimane libero anche rispetto alle innovazioni, agli sviluppatori, esatto, successivi. Che per ora, rimanendo sulla, come dire, se il dibattito rimane teorico è molto interessante, poi però appunto rimane teorico, in realtà però rispetto al monopolio dei brevetti ci sono una serie di conseguenze, penso per esempio a quella del brevetto sul farmaco dell'HIV per esempio, no? Beh sì, ovviamente tutto il dibattito sui brevetti non è un dibattito che nasce certo, dalla curiosità teorica, né il mio ma neanche il dibattito che racconto nel libro non è certo motivato semplicemente da un dibattito in punta di diritto. I brevetti hanno avuto un impatto notevole sulla vita delle persone e soprattutto il movimento, diciamo, di Seattle è stato il movimento che ha posto la questione all'attenzione planetaria, nel senso che la questione che citavi tu, quella dei farmaci, è sicuramente quella che ha un impatto più grave e più eclatante. Per chi non fosse al corrente, i farmaci brevettati non possono essere importati attraverso il mercato parallelo, quindi stati poveri sono costretti a comprarli dalle multinazionali dei paesi ricchi, e questo ha voluto dire che per esempio nel Sudafrica della fine degli anni 90, in cui il reddito medio era di $2,600, bisognava spendere $1,000 al mese per pagarsi una terapia contro l'AIDS in un paese in cui i sieropositivi erano il 20% della popolazione, se non mi sbaglio. Sull'onda di questa vertenza tra le multinazionali e diversi popoli e diversi governi dei paesi del sud del mondo, non soltanto ci sono stati movimenti sociali molto grossi, molto importanti, che si sono incrociati poi con i movimenti, con i vari movimenti che da Seattle in poi hanno attraversato anche le nostre strade, ma soprattutto questi movimenti hanno avuto anche la capacità di incidere su, su accordi internazionali su cui insomma noi abbiamo sempre fatto molta fatica a incidere, e oggi qualche clausola in più per importare brevetti, importare farmaci nei paesi del sud del mondo, o comunque far accedere alle tecnologie anche i paesi poveri, oggi c'è ed è, lo dobbiamo proprio a quelle lotte lì. Sempre sui farmaci c'è la questione che riguarda segnatamente l'India, ma non solo, che fino a qualche anno fa era uno dei maggiori produttori mondiali di farmaci generici, poi sempre di più c'è stata, come un classico, essendoci un mercato molto ampio, l'intromissione prima e poi alla fine una vera e propria colonizzazione delle multinazionali farmaceutiche, che hanno ribrevettato alcuni farmaci generici, no? Cambiando leggermente, andando lì, come dire, usando la punta di diritto per poi andare a fare un sacco di soldi. L'India in questo momento ha un ruolo molto ambivalente, perché come dicevi tu, per molto tempo è stato uno degli alfieri dei diritti dei paesi poveri nei confronti dei paesi ricchi, in quanto era una delle nazioni che aveva maggiori contatti con gli stati poveri come il Sudafrica o altri stati, e quindi era in grado di importare brevetti a basso costo, ma importare farmaci a basso costo, ma era allo stesso tempo un paese sufficientemente evoluto da produrre questi farmaci. Oggi l'India ha questo doppio ruolo di alfiere della lotta contro i brevetti delle multinazionali americane, ma allo stesso tempo questa lotta serve soprattutto ad alimentare anche una capacità di penetrazione commerciale dell'India, che sta diventando il paese monopolista dell'industria farmaceutica in tutti quei paesi in cui il mercato interno non sarebbe in grado di produrre farmaci, né di andare a comprare i farmaci ai prezzi esorbitanti a cui li paghiamo noi, che per noi spesso sembrano trascurabili, ma per molti malati del sud del mondo sono prezzi inaccessibili al costo della vita, insomma. No, non so, Dio, avete detto tutto così veloce. No, io una cosa che tornando, perché ci piace molto Alda Merini, quindi non vediamo l'ora di parlare. No, devo dire no, che insomma, diciamo che sono, appunto, come tu dicevi, dal 99 che almeno io personalmente sento parlare di brevetti, eccetera, e devo dire che è spesso da me quello. È spesso da te, spesso con te anche, quindi sono io l'intruso. Quindi. Sono molto contenta che finalmente ci sia anche qualcosa di scritto, che sicuramente sul brevetto avrà, insomma, ci saranno molti testi, non so, però mi sembra che tu l'abbia un po' racchiuso anche, non so se fai anche una storia, diciamo così, delle lotte che ci sono state dal 99, come giustamente hai raccontato tu, ormai negli ultimi anni mi sembrano un po' rallentate, però il libro non è un libro militante, nel senso, il libro è un libro che cerca di fare divulgazione critica, quindi non c'è una vera e propria cronistoria delle lotte, però come dicevo prima, queste lotte in realtà hanno avuto un'importanza reale, non sono state affatto lotte di testimonianza, per cui sono lotte che deve conoscere anche uno specialista di una multinazionale che ha a che fare con i brevetti oggi, perché sapere cosa è successo in Sudafrica, cosa è successo in India, cosa è successo in Brasile, perché oggi la legislazione internazionale sui brevetti è così e non colà, è una questione appunto decisiva e importante sul piano anche semplicemente normativo. Per cui anche se il libro poi non ha questo intento di fare una cronistoria dei movimenti o delle lotte, alla fine, gioco forza, c'è un capitolo che alla fine invece è stato dedicato proprio a queste tematiche, perché anche chi voglia fare divulgazione sui brevetti anche nella maniera più obiettiva possibile non può non inciampare, diciamo, in queste tematiche, perché sono centrali. Anche perché secondo me, come tu dicevi prima, la situazione esploderà a un certo punto, perché veramente penso che si sta brevettando talmente tanto e talmente tutto che oggettivamente poi non, secondo me il brevetto rallenta anche la sperimentazione, o no? Questo è quello che stanno dicendo un po' tutti, sono a cercare le dichiarazioni un po' tutti i dirigenti, tranne la Apple, un po' tutti i dirigenti delle multinazionali, per esempio dell'informatica, che oggi sono quelle che si fanno la guerra più grande sui brevetti, stanno in qualche modo cercando di fare lobby per introdurre almeno delle clausole, insomma, per ammorbidire un po' il diritto sui brevetti, perché non soltanto si fanno la guerra tra di loro, ma ormai è diventato anche un business fare dei brevetti più o meno finti per poter fare causa delle multinazionali, per cui ormai c'è un fenomeno, li chiamano patent troll, cioè i troll dei brevetti, che attualmente mi sembra detengano il 40% della proprietà intellettuale, che sono semplicemente personaggi un po' come gli speculatori in borsa, che non fanno niente, non hanno nessun merito, ma semplicemente spostando soldi da un brevetto all'altro riescono a lucrare molto facendo, mettendo spesso sotto scacco anche le multinazionali, perché poi una volta che si trovano in tribunale questi investono soltanto sugli studi legali e spesso riescono a vincere o comunque costringere multinazionali a andare a patti con loro. E insomma tutta questa, il mercato dei brevetti assomiglia molto al mercato finanziario in questo momento, in cui ci sono molte persone che campano soltanto di una bolla speculativa in cui, che a un certo punto dovrà finire. E penso che nel campo dei brevetti qualcuno si sta rendendo conto che è meglio fermarsi prima che la bolla scoppi da sola, però questo lo vedremo, insomma. Beh, è prevenibile uno stop rispetto ai brevetti nell'ottica che dici te, sì, per motivi commerciali. Da un punto di vista, identificato il problema, anche se brevemente, in quello che abbiamo detto fino adesso, quale può essere la soluzione, ammesso che noi la possiamo trovare, insomma, qua, però così, volendo, potendo decidere, quale potrebbe essere la soluzione? Di proposte in campo ce ne sono anche tante, dall'accorciare semplicemente la durata dei brevetti, che sarebbe già importante, perché oggi un brevetto dura 20 anni, e 20 anni. E la cosa interessante è che le leggi sui brevetti sono rimaste molto simili dal 1400 a oggi, per cui durava 20 anni nella Venezia del 1400 e dura 20 anni nel mondo di oggi. E magari 20 anni dal punto di vista tecnologico nel 1400 volevano dire una cosa, e 20 anni oggi sono un'eternità. Certo. Sono un'eternità. E ovviamente c'è un grosso dibattito, oggi lo vediamo anche nel campo dei farmaci, sulla questione tra generici e farmaci griffati. Oggi si cerca di prolungare la durata dei brevetti dando importanza alle griff, diciamo alle marche farmaceutiche, anche dopo la scadenza del brevetto. Questa potrebbe essere già una proposta di riforma, diciamo. Cioè, vale a dire, questa non l'ho capita bene. Oggi ne parlo perché proprio nella finanziaria di cui si sta parlando in questi giorni, se obbligare i medici di base a prescrivere il principio attivo di un farmaco oppure il nome del farmaco griffato. Okay. Non so, Augmentin per fare pubblicità, oppure Amoxicillina, se non mi sbaglio, quello è il... Io, avendo sempre il mal di dente, il principio attivo o il farmaco stesso? Esatto. Nel senso che il principio attivo si può trovare anche nei paramedicinali. Esatto, e mentre le lobby farmaceutiche stanno cercando di prolungare la durata dei brevetti, dicendo che anche se il brevetto è scaduto, però il medico di base deve continuare a prescrivere l'Augmentin e non il principio attivo che si trova in altri 10 o 20 farmaci. Insomma, la questione della durata dei brevetti è una questione aperta su cui ci sono grandi lobby attive in campo. Però qualcosa cambia. A me piace citare un esempio che ha fatto adesso Twitter, l'azienda quella che gestisce il social network, che si è impegnata con i propri ricercatori a dire: noi non useremo mai i vostri brevetti per fare causa a qualcun altro, useremo casomai qualcuno se ce li contesta, li useremo per difenderci, ma voi potete stare sicuri che i vostri brevetti non saranno mai usati contro qualcun altro. In qualche maniera noi non li useremo mai per partecipare a quella guerra dei brevetti. Questo vuol dire che evidentemente tra gli sviluppatori, i programmatori, esiste una coscienza abbastanza chiara. Evidentemente un'azienda diventa più appetibile se ha un atteggiamento, diciamo, più equo nei confronti dei brevetti rispetto a un'azienda più aggressiva. Questo forse ci fa capire che tra chi lavora in questi ambiti un po' il vento sta cambiando. Poi chiaramente i grandi manager la pensano in una maniera diversa, però anche lì non è, qualcosa sta cambiando, secondo me si arriverà a un accordo, per esempio, tra tutte le grandi aziende, per creare un ambito di un armistizio, diciamo. Sicuramente l'armistizio secondo me non ci sarà, forse sui semi, io su questo continuo a avere, non lo so, mi sembra che ci sia, però forse un altro argomento. Sui semi anch'io penso che non ci sarà nessun armistizio, perché c'è un potere di monopolio da parte di pochissime aziende. Che è in grado, molto più di quello farmaceutico. Sì, che sono in grado di andare a pescare anche singoli contadini in giro per il mondo e fargli causa se nel loro campo è cascato per caso un allucinante semi transgenico. Insomma, continuano a fare questo tipo di cause, e questo vuol dire che evidentemente lì l'attenzione è talmente alta che non vogliono cedere un passo. Non è un caso, insomma, che uno dei movimenti più grossi anche in India sia sulla terra, insomma, rispetto ai brevetti. Penso a Vandana Shiva, su questo, esatto, non ci ha scritto molto. Anch'io parlo molto di Vandana Shiva perché l'India è uno dei paesi chiave per quanto riguarda l'evoluzione del diritto di proprietà intellettuale, e Vandana Shiva, ovviamente non solo lei, ma lei e l'enorme movimento di contadini in India che lei ha contribuito a organizzare, sono uno dei soggetti, appunto, in campo che di fronte alle multinazionali sono tra quelli in grado di dettare la direzione in cui va il mondo del brevetto da una parte o dall'altra. Va bene, noi dobbiamo lasciare Andrea, anche se avrei continuato, insomma, per non si sa quanto, per ore ed ore. E il brevetto EDS, la casa editrice, come la casa editrice, la scelta della casa editrice, la che normalmente non pubblica cose così, è più filosofica come casa editrice. Allora, è una casa editrice che pubblica tantissimo, e però, se posso spendere una parola, libro fa parte di una nuova collana che hanno iniziato delle persone che fanno parte, una collana che si chiama Fondamenti e che cerca di riprendere un po' una tradizione di divulgazione critica che negli anni 70-80 avevano i cosiddetti libri di base, che in Francia hanno altre collane. Insomma, è un tentativo anche nobile di riprendere un filone di divulgazione critica, e quindi sta tirando fuori tutta una serie di titoli su argomenti molto basilari, raccontati in maniera non neutra, però anche in una maniera, diciamo, accessibile. Quindi adesso è uscito un libro sul razzismo, sono usciti libri su tematiche molto di base che cercano di non essere né neutre ma neanche eccessivamente ostiche. Infatti, diciamo così, e devo dire che funziona, perché io, anche se ho letto solo l'inizio, l'ho capito che per questa roba qua è tanto per me, Ah, voglia, anzi sei stato il primo, ha detto sì il libro di Andrea, subito l'argomento mi interessa. E infatti, no, per finire sulla casa editrice, c'è questo nuovo colore anche della collana, che è nera, rispetto a, insomma, la maggior parte dei libri di EDS, che hanno sempre dei colori EDS fucsia. Ha brevettato il nero, sa? Ha brevettato il nero, infatti sempre il nero. Va bene, anche io vedo anche il prezzo, insomma, abbastanza modesto. Il nero quindi... ha un grosso difetto, è che non si vede nelle librerie. Si perde. Sì, dal punto di vista dell'arredamento non è stata una grande scelta, mi hanno detto. Ah, dici che si perde tra i libri? Questo è stato il commento di Tullio De Mauro quando gli hanno parlato di questa cosa. Guarda che se ci però non si perde, se nero non è... è benissimo. Tullio De Mauro è stato il fondatore di quella collana, i libri di base, che fecero gli editori riuniti. E i direttori di questa nuova collana sono andati a parlare con lui. Lui, la prima cosa che gli ha detto è stato: il nero però nelle librerie non si vede, perché spesso le librerie sono nere. Che comunque, se ci pensi, è verissimo, perché provo a pensare alla maggior parte delle librerie. È bianca, quella dove frequento io è bianca. Le macchie sono tutte bianche. Le macchie nelle librerie, sì, ma se lo pensi cromaticamente, vabbè, questo è un discorso mio, però vabbè, ma questo fa parte anche di una lotta contro IKEA che stiamo portando avanti. Giustamente. Allora, prima di andare, però, Andrea, dobbiamo fare la domanda che è certo, guarda che Andrea risponde strano, Vabbè, ma guarda, però non so se riesce a battere alcune che abbiamo ospitato da questi microfoni. Cosa stai leggendo? Innanzitutto, riesci a leggere della tua vita familiare, oltre che a scrivere? Comunque, sul comodino cosa c'hai? Riesco a leggere perché mi hanno appena rubato la bicicletta, quindi questo sta facilitando molto il tempo morto durante la giornata. E in questo momento sto leggendo un libro che probabilmente voi conoscete, perché si chiama Il peso della grazia, di Christian Raimo, che probabilmente conoscete bene. Sì, però il libro non l'abbiamo presentato. Che te ne sembra? Com'è? Diciamo che parla di un tema che mi è caro, perché parla di un fisico precario che, insomma, fa parte della mia esperienza. È un fisico precario che prega molto, io non pregavo altrettanto durante la mia carriera da ricercatore, per cui sto ancora cercando di capirlo, ma l'ho appena iniziato, quindi non posso darne ancora un giudizio, è anche un bel mattone. Va bene. Christian Raimo l'abbiamo avuto anche ospite da questi microfoni un annetto e mezzo fa, con quell'altro. Ah, infatti mi sembrava strano, non c'ero io. Io ero è troppo intellettuale per me Christian Raimo, come sai io sono abbastanza. Va bene, noi salutiamo Andrea, e il libro si chiama Il brevetto, Andrea Capocci, EDS, la casa editrice. Grazie a voi e a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. E noi fra pochissimo continueremo a parlare, in realtà, sempre di in questo caso di libertà intellettuale, perché andremo tu a parlare grande, perché cerchi sempre di fare di legare. Vabbè, però c'è un collegamento, scusa, la poesia senza rete. Allora, a questo punto possiamo collegare qualsiasi cosa, però ok, ci andando a parlare più o meno dello stesso argomento. Andiamo a parlare del libro fumetto, in realtà fumetto non è anche proprio come definizione, ma infatti. Poi l'andremo a vedere con Silvia Rocchi, che è autrice di questa graphic novel. Ormai questo becco giallo, ormai questo fa. Che si chiama Ci sono notti che non accadono mai, titolo molto poetico, non è a caso, visto che è un canto a fumetti per Alda Merini, e ne parleremo tra poco. Thank you. 87.9 Radio Onda Rossa, 21 e 46 minuti primi, torniamo in diretta per andare a parlare con Silvia. Silvia Rocchi, ciao Silvia, come va? Bene, bene. Tutto bene, tutto bene. Non so se hai sentito la trasmissione, insomma, finora. Sì, sono arrivata tardi, ma ho sentito un pezzo. Abbiamo parlato di brevetti un po' anche che riguarda l'Intel, la proprietà intellettuale. Adesso ci spostiamo invece, come prima ho un po' introdotto, in questa libertà invece intellettuale di pensiero, quale poteva essere la figura di Alda Merini. Tu hai fatto questa graphic novel, ormai si chiama così, quindi... diciamo così, un racconto figurato, quindi disegnato su alcune poesie e su una parte di vita di Alda Merini. La cosa che ti volevo chiedere innanzitutto è come ti è venuta l'idea di seguire e di raccontare di questa poeta milanese. Allora, innanzitutto c'è da dire che è stata una proposta della casa editrice, per cui io già conoscevo la sua poesia, però non mi ero mai avvicinata così tanto e così approfonditamente, per cui c'è stato proprio un lavoro di immersione totale e mi sono andata a leggere la maggior parte delle cose che ha scritto e in questo senso sì, mi sono avvicinata. Non è partita da me però la cosa, ecco, va detto questo. Allora Silvia, intanto buonasera, sono Valerio e parto dall'inizio. Cristina, nel spiegare, nell'annunciare il tuo libro, ha parlato di graphic novel, io ho parlato di fumetto. Come al solito in queste situazioni, ma soprattutto con col tuo lavoro, ci troviamo diciamo così un po' a disagio, perché già fumetto viene spesso inteso in maniera un po', come dire, dozzinale. Graphic novel ormai è... inizialmente era altisonante, adesso è quasi banalizzante. Non ti chiedo una definizione, però ti chiedo, nel momento in cui ti hanno chiesto di approcciarti a questo lavoro da un punto di vista visuale, diciamo così, che cosa ti è venuto in mente di andare a rappresentare? Tu usi una tecnica non soltanto, come dire, fattuale, ma anche narrativa abbastanza particolare. Qual è stata la tua visione che hai avuto quando hai iniziato a ragionare su come impostare questo lavoro? Ok, allora c'è da dire anche qua che sì, hai detto giustamente che fumetto, graphic novel, adesso facciamo un po' confusione rispetto ai termini e alle terminologie, però il discorso è che mi sento molto libera di spaziare tra quello che può essere una tecnica più pittorica oppure appunto più un pochino più classica, quindi cioè la narrazione diventa poi un tutt'uno con quello che è anche lo stile, e ho scelto di raccontarla in questo modo perché ho pensato che la forza delle sue parole potevano essere messe a contrasto con un linguaggio parlato, quotidiano, molto semplice, e per cui questa storia si svolge su due vicende, su due fatti che si susseguono e sono appunto, non ho la quotidianità della diciamo Merini, che anche se il suo volto in realtà non lo tratteggio quasi mai, e comunque insomma vediamo la sua figura che si sposta per la città, per le pareti della sua casa che sono così spesso ricordate nelle sue poesie, e poi appunto la parte in basso della struttura narrativa è questa ragazza che cerca qualcosa in un mondo un po' immaginario, che appunto a quel punto lì si avvicina alla sua poesia, cerca di rendergli un po' più giustizia, perlomeno con i segni. Ecco, ecco, tu dicevi il fatto che la Merini tu non la raffiguri, non ne tratteggi mai il viso, come mai hai fatto questa scelta? Perché ho pensato, allora innanzitutto c'è in copertina, come avete visto, è lei, è la foto, cioè, infatti sì, più famosa che c'è, no? E allora ho deciso di non puntare troppo l'accento sui suoi connotati fisici, ma piuttosto su quelli appunto interiori, della sua poesia, della sua arte. E sì, quindi in questo senso ho pensato che la scelta più giusta fosse quella di non lasciare mai troppo capire che è effettivamente lei. Devo dire che infatti non io, come dire, me ne sono accorto dopo, però in realtà l'ho molto più che apprezzato, l'ho trovato anche molto comodo, tra virgolette, perché leggendo l'opera ti scordi quasi che stiamo parlando di un personaggio. E fondamentalmente io mi sono poi lasciato prendere intanto dai disegni, chiamiamoli così, poi in realtà sono qualcosa anche di molto più complesso, che ho trovato molto belli, ma soprattutto appunto dal flusso. E credo che poi, trattandosi di una persona che comunque è un'icona anche per quello che ha rappresentato, ma anche per la foto che dicevi, il fatto che fosse tra virgolette spersonalizzata, almeno a me ha permesso di andare molto più nel flusso. Questo sicuramente, Maggie. Sì, appunto, il discorso è che da un certo punto di vista può essere visto sì come comodo da parte mia, però è vero anche quello che hai detto rispetto all'icona, e io volevo il fatto che lei negli ultimi anni fosse stata così tanto presa come un simbolo e fosse stata così tanto intervistata anche in televisione, quindi c'è proprio... appunto, sì, un'icona, è diventata un'icona, e ho cercato di non puntare l'accento su quello. Anche la stessa esperienza manicomiale l'ho trattata in bianco e nero, è una sospensione del racconto che sta proprio in mezzo, e quindi è una sorta di immersione in quello, nelle cose drammatiche che avrà vissuto. E per poi riuscirne e ritornare dopo al colore, quindi anche in questo senso ho fatto la scelta più simbolica che potevo immaginare, ecco. Senti Silvia, ma la scelta delle poesie che tu racconti, con cui racconti Alda Merini, invece le hai scelte tu, le ha scelte la casa editrice? No, le ho scelte io, e le ho scelte con un andamento cronologico, cioè all'inizio del racconto ci sono le sue poesie, le poesie che aveva pubblicato all'inizio della sua carriera, quindi verso i 15 anni, e per poi arrivare appunto a questo periodo di lungo silenzio che è stato poi il manicomio, e quindi da lì in poi nella parte, insomma, del racconto in cui vado poi in bianco e nero, appunto, ritorno su quel periodo lì e fino a poi alla fine della sua vita, che è la fine del libro. Come hai lavorato? Non tanto mi riferisco fondamentalmente alla preparazione. Dicevi che ti sei immersa nell'opera della Merini, e poi immagino che ne avrei anche studiato la vita. Più o meno, in sintesi, per quello che possiamo fare qua, insomma, che tipo di vita è stata quella della Merini? Perché appunto tu dicevi che ci sono state queste cesure manicomiali che... L'hanno anche molto influenzata. La cosa particolare della Merini, vista dal mio punto di vista, che la conosco appunto a livello iconico, però poi non l'ho mai frequentata così tanto, è il fatto che rappresenta anche un'eccezione, perché poi, nonostante il percorso anche di lontananza dalla comunità intellettuale che ha avuto in alcuni anni, poi in realtà è diventata appunto un'icona. E quindi in che modo io ho poi scelto... No, più che altro come qual è il tuo, qual è stato il tuo approcciarti appunto alla preparazione per quanto riguarda la vita della Merini, quindi che cosa, quali fonti hai consultato oltre alle sue opere rispetto alla vita, intendo? Allora, sì, dunque io ho pensato, come dicevo prima, per raccontarla in maniera più dettagliata, di frammentare una parte della sua vita e prendere semplicemente una passeggiata con un'amica, dove possono parlare del più e del meno, in un bar, e in questo senso, appunto, per fare questo tipo di descrizione mi sono andata a vedere dei video in cui la intervistano a casa sua, oppure ho letto anche altre interviste. Per esempio, una molto sintetica ma che mi ha colpito molto è stata quella pubblicata da Stampa Alternativa, che si chiama Electroshock, in cui, al di là del titolo, non parla soltanto appunto del manicomio, è molto, dove si capisce molto bene il suo la sua forza interiore, ecco. E in questo senso anche la scelta delle poesie si sono strutturate su, cioè ho scelto, è stato tutto un confluire di cose per cui i disegni rincorrevano le poesie e viceversa, è stato, non ho fatto neanche molte prove per cui ho scelto un po' in questo senso, loro mi hanno più o meno dato l'ok dalla casa editrice e così è andato avanti. Quanto ci hai messo? L'unico modo in cui l'ho pensata e così è stato. Quanto hai impiegato a iniziare, cioè quanto tempo è intercorso, diciamo, dalla prima telefonata della casa editrice a quando hai consegnato tutto allora, il lavoro? Allora, sono stata contattata a gennaio dell'anno scorso, sì, insomma, no, adesso 2012 sempre, e mi hanno proposto questa cosa, quindi ho lavorato appunto sulla documentazione, su tutto questo fino verso aprile-maggio, dopodiché ho iniziato a disegnare, ho fatto ecco, come dicevo prima, le prove più o meno, e due mesi all'incirca di lavoro ad agosto ho consegnato tutto. Senti, invece con il disegno, come nasce insomma la tua passione per il disegno e in questo particolare anche modo che tu hai di disegnare, che insomma non definirei proprio solo e semplicemente disegno, ecco. Infatti, allora, io ho una formazione più pittorica, diciamo, infatti, sembra molto all'Accademia di Belle Arti, ho fatto pittura, e per poi arrivare in un secondo momento all'illustrazione, anche se me ne sono sempre un pochino interessata. E un mio punto di riferimento per quanto riguarda il mondo dell'illustrazione e anche del fumetto è Dominique Goblet, che è un artista belga, che è interessante perché non lavora soltanto con le immagini, ma proprio fa un discorso a livello narrativo molto forte, e è anche questo cioè, che cerco di capire bene nel mio lavoro, ecco, non mi fermo soltanto alla matita, cerco di fare funzionare bene tutte le cose insieme. E comunque sì, la passione per il disegno in generale ce l'ho sempre avuta fin da quando sono bambina, quindi è una cosa che mi porto dietro da tanto e spero continui. E stai lavorando adesso a qualche altra cosa? Allora, in questo momento sto portando avanti un progetto insieme a altre due mie colleghe e amiche che si chiama Bosco di Betulle, è un progetto di fotografia, illustrazione e anche pittura in cui praticamente ci ospitiamo nelle nostre rispettive case natie e descriviamo insieme i posti in cui siamo cresciute e che ci hanno sempre colpito. E tutto questo progetto si espleterà in una mostra a Firenze in aprile 2013 e per il resto cerco di farmi pubblicare altre cose che ho fatto prima, insomma cercando di muovermi in questo mondo un po', chiamiamolo stile. Silvia, la penultima domanda, perché poi ti toccherà la domanda classica tabula rasa che forse avrai sentito anticipata, l'abbiamo fatto Andrea Capocci prima, però prima leggendo le note biografiche tue vedevo che tu vieni dall'autoproduzione, quindi abbiamo trovato anche una sorta di legame con l'argomento precedente. Rispetto all'autoproduzione, intanto volevo sapere se è ancora un mondo che frequenti e se, come dire, è semplicemente uno strumento o anche un'attitudine, nel senso spesso si inizia con l'autoproduzione per poi approdare al mainstream, inteso come al mondo quello delle case editrici e così via. Per cui volevo sapere invece per te cosa è stata l'autoproduzione e se è ancora un panorama attuale. Allora, per me hai ben detto, perché è assolutamente un'attitudine, cioè si pubblica da soli per pubblicare quello che vogliamo e senza filtri, no? Quindi sì, ci sono ancora abbastanza dentro a quel mondo e cerco. Ho un collettivo dal 2009 che si chiama La Trama e siamo situati tra Bologna e la Toscana, insomma sappiamo tutti che Bologna è un po' il punto di riferimento per questo tipo di cose Per cui sì, insomma, cerco di portare avanti anche questo perché mi dà tanta soddisfazione e nonostante spesso sia una vogliamo chiamarla perdita di tempo, di soldi, però sì, è assolutamente un'attitudine in questo senso, cioè fai quello che fai perché ci credi e perché ti piace tanto farlo. E sì, quindi continueremo, noi abbiamo pubblicato delle antologie in cui siamo 14 autori in cui ci confrontiamo tutti su un unico tema, ne abbiamo pubblicate 3 per adesso e porteremo l'ultima antologia che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto una mostra a Bruxelles dove esporremo le nostre tavole originali e quindi insomma cerchiamo sì, di portare avanti anche questo. Allora, la domanda fatidica, Silvia, sperando insomma, che stai leggendo in questo momento? Allora, ho appena iniziato un libro di Gioconda Belli, che è La donna abitata. La donna abitata. Ah, sì. Molto però bello. Non l'ho appena iniziato, quindi... Beh, speriamo che ti piaccia, perché lo leggo anche agli occhi di Cristina, a noi due è piaciuto. Sì. Ah, perfetto, È bello, suggestivo a più livelli, insomma, sì, è... anche insomma, diciamo così, per chi disegna, beh, c'è molta insomma, descrizioni anche fantasiose. Sì, più piani narrativi, è veramente sì. È un bel libro. Senti, Silvia, noi ti ringraziamo tantissimo. Speriamo di risentirci, insomma, per la tua prossima opera. Che Valeria, hai tu il libro? Ripeti un attimo il titolo del libro di Silvia, anche la casa editrice. Il libro è bellissimo, ci sono notti che non accado mai, canto a fumetti per Alda Merini, Silvia Rocchi, ci stiamo parlando adesso. Io ti faccio un ringraziamento personale perché prima, rispondendo alla mia domanda, hai usato la parola soddisfazione parlando del produrre le tue cose e trovo che sia una cosa proprio bella, insomma, sembra scontata però è viva, insomma. Ecco, bene. E quindi grazie, Silvia, a voi. Grazie mille, grazie, buona Silvia. Serata buona e sera. A presto. Ciao. Okay, a presto, ciao. Ciao, ciao. E niente, abbiamo finito. Dai, bello soddisfazione sentire un autore, non sempre capita, no? che ti dicano, quando chiedi perché hai fatto questa cosa, ti spiegano l'approccio narrativo, questo e quest'altro invece no, perché mi volevo soddisfare, che non è male. Vedi, c'è ancora qualcuno che ha delle soddisfazioni nelle cose che fa. Ma sì, ma noi cerchiamo. Ma siamo un po' frustrati. Noi cerchiamo negli autori, per questo per questo facciamo tabula rasa. Va bene, Valerio, che dobbiamo dire? Dobbiamo fare gli auguri, no? No, finisce il mondo. Regà, noi i nostri libri lì fino al 21 li continuiamo a leggere. Invitiamo tutte e tutti il 19 dicembre, ci saremo pure noi, c'è Ascanio Celestini. Ah no, Valerio, già non ci sei tu, perché? Va bene, io ci sarò. Mi ha comprato un biglietto di teatro e devo andare. E va bene. E per cui, comunque, il 19 dicembre c'è Ascanio Celestini. Il libro l'abbiamo presentato pure qua a Pro Patria, al Forte Prenestina, per Scarcerande e per Radio Onda Rossa. Quindi, insomma, invitiamo tutte e tutti a partecipare perché il libro è molto bello e lui è decisamente parla di carcere, ma non solo, anche di Repubblica Romana, di Risorgimento, insomma, la storia un po' di questo paese. Io poi questa ho finito di leggere, è proprio bello. Quindi me lo posso riprendere. Poi con la... No, da mo' che te lo sei ripreso. Ah, già da mo'. L'ho comprato, sai, con i soldi, sono andato in libreria, gli ho dato i soldi. Comunque vale la pena perché è molto bello, sì, pure secondo me, a me è piaciuto tantissimo. Sì, sì, no, io ero già tentato, chiaramente, quando ho letto quei due capitoli, quando tu me l'avevi prestato, poi con la presentazione di Ascanio Celestini e qua, insomma, non potevo che finirlo. Vabbè, io direi che l'appuntamento è fra un mese, all'anno prossimo praticamente parto, quindi ci rivediamo a metà gennaio. Avremo modo di accumulare tanti libri per voi. Sì. Questo sì, sicuramente. Sicuramente sì, e quindi... Buon anno. Tabula rasa, sì, si prende una pausa di almeno un mese, è il caso di dirlo, visto che mi dicevi che lunedì prossimo non c'è nessuno. Oh, ci sentirete sul sito, no? Sì, sì, potete riascoltare le nostre trasmissioni ogni lunedì al posto di sentirla in diretta, vi risentite una che è passata. Che bella vita, per un po' di consigli di libri per 24 e 31, io mi auguro che nessuno lo faccia. Vabbè, i consigli per insomma, il 24 dopo un po' basta, se va a casa si legge, 25, 26 con la pancia piena. Voglia legge, sentite tabula. Noi vi salutiamo 22:05, vi lasciamo a Radio Possum. Ciao. Ciao.